Anemone si guadagna le ali. La fata Anemone si specchiò nell'acqua chiara del laghetto. Ma perché non ho le ali? Gemeva. Perché sono una fata così inutile? Aveva gli occhi pieni di lacrime e non si accorse di un altro riflesso nell'acqua. Solo quando la fata regina le parlò dolcemente, alzò la testa e la vide. Tu non sei una fata inutile, Anemone. Semplicemente ci metti un po' più di tempo per imparare certe cose. Ora asciugati gli occhi e dimmi cosa vedi nel laghetto. Vedo una bella fata regina e una brutta fatina triste. Non c'è una brutta fatina, Anemone. C'è solo una fatina corrucciata. E le fate non devono essere corrucciate. Devono sorridere. È molto più facile, sai? Anemone guardò la propria immagine corrucciata e sorrise. Poi si rabbuiò di nuovo e di nuovo sorrise. E sorrise ancora. Hai ragione, è molto più facile. Si stupì. C'è un'altra cosa che le fate devono saper fare, disse la regina. Devono sempre ascoltare con molta attenzione. In qualunque momento può capitare che qualcuno abbia bisogno del nostro aiuto. Il mattino dopo, molto presto, Anemone venne risvegliata dall'allegro canto del merlo. Grazie, merlo, lo salutò uscendo di casa. Sorrise ai fiori e ascoltò i suoni della nuova mattinata. E allora udì uno strano suono che veniva dal laghetto. In punta di piedi si avvicinò e curiosò fra i cespugli. Una bambina stava seduta sulla riva e le sue lacrime cadevano nell'acqua. Salve, disse Anemone. Che ti è successo? La bambina smise di piangere e la fissò. Non temere, sono una fata e forse posso aiutarti, le sussurrò Anemone gentilmente. La bimba raccolse una bambola dall'erba. Ho rotto la mia bambola Lucia, singhiozzò. Guarda, il suo viso è sporco e sciupato. Vediamo un po'. È davvero Conciata Maluccio? Ma non importa. Credo proprio di avere il rimedio giusto. Anemone tirò fuori dalla tasca una scatolina di polvere magica e spruzzandola sul volto di Lucia recitò. Polvere magica, lavora per Benino e rendi a Lucia un bel visino. Ci fu un lampo argenteo e in un attimo il volto della bambola diventò come nuovo. Oh, grazie, grazie. Lucia è ancora più bella di prima. Ora vado a mostrarla alla mamma. La bambina corse via sorridendo felice e Anemone tornò a casa canterellando. Si guardò allo specchio per controllare se aveva il sorriso giusto. Mentre si voltava, intravide qualcosa che le fece lanciare un gridolino di gioia. Sulla sua schiena cominciavano a spuntare due tenere alucce. Sono ancora corte, disse fra sé, ma sono sicura che cresceranno. Il giorno dopo, mentre era in giardino, sentì ad un tratto un furioso latrato, seguito da un rumore metallico e da un uggiolare pietoso. Anemone corse fuori dal giardino per vedere se poteva portare il suo aiuto. Un cane, sul ciglio della strada, stava tentando disperatamente di liberarsi da una corda legata alla sua coda, a cui erano attaccati dei barattoli di latta. Poverino, chi ti ha fatto questo dispetto? Domandò impietosita Anemone. Sono quei ragazzacci laggiù che si sono divertiti un sacco. Io invece le assicuro che non ci trovo niente di divertente, si lamentò il cane. Lo credo bene. Ora stai fermo, mentre cerco di disfare i nodi. Anemone provò a disfarli, ma erano troppo stretti e non ci riuscì. Allora spruzzò un po' di polvere magica sulla coda del cane e recitò. Polvere magica, agisci senza indugio. Togli i barattoli al povero segugio. In un balino, i barattoli sparirono. Il cane abbaiò gioiosamente e trotterellò via muovendo la coda. Anemone andò a sedersi vicino al laghetto per riposarsi. Era una giornata ventosa e l'acqua era tutta increspata. Ma in un momento senza vento, Anemone riuscì a vedere il suo riflesso. Oh, le mie ali! Sono quasi cresciute del tutto! E come sono belle! In quel momento udì una voce. Gigetto, dove sei, Gigetto? E una vecchia signora con una gabbia vuota in mano si fece avanti. Oh, povera me, povera me! Ho dimenticato di chiudere la gabbia e il mio pappagallo è volato via. Speriamo che non gli sia successo nulla. Non si preoccupi, disse gentilmente Anemone. Lo cercherò io. E intanto lei si sieda e si riposi. Anemone cominciò a fischiare in un modo speciale e attese. Poi fischiò di nuovo e si incamminò per il bosco sempre fischiando e fermandosi ad aspettare. Infine udì un debole fischio di risposta. Seguì la traccia e trovò il povero Gigetto intrappolato in un cespuglio di rovi. Di nuovo Anemone spruzzò la polvere magica e recitò: polvere magica, ovunque ti trovi, libera Gigetto da questi rovi. Ci fu un lampo argenteo e Gigetto tornò sano e salvo nella sua gabbia. La vecchia signora era emozionata e felice, ma Anemone si sentiva così stanca che l'unica cosa che desiderava era andarsene a casa a dormire. Potresti provare a volare, Anemone. Si voltò e vide la fata regina dietro di lei. Vedi, mia cara, hai imparato a ridere e ad essere gentile con la gente, come ogni fata che si rispetti, e perciò ti sei guadagnata le ali. Anemone sorrise con gratitudine, poi con orgoglio mosse le ali e volò fino a casa. Avrebbe pianto dalla gioia. Finalmente era una fata in tutto e per tutto.